Buonasera a tutti, come va? Come siete belli visti da qui su. Salutatevi, saluta la persona che ha detto, sei bellissimo stasera. Sia a destra che a sinistra, così non si offende nessuno. Finalmente, ragazzi, è arrivato il fresco. Non stiamo sudando più, è vero? Bellissimo. Vedo che qualcuno dice no. Come mai? Vi piaceva sudare? Allora, io lo sapevo. Dovevamo arrivare, qualcuno doveva dire sì e qualcuno doveva dire no. Io lo sapevo. Sapete, mi succede spesso di ascoltare la gente parlare. E quando li ascolto parlare, no? Tu puoi ascoltare, no? Gente che parla di vari argomenti. Allora, vi faccio un po' di esempi. Per esempio, quello che mi capita di ascoltare spesso è gente che parla di un argomento, soprattutto nel nostro comune di appartenenza, molto gettonato. Si parla di raccolta differenziata. No, non ridete che è serio. Chiesa, è serio. Allora, si parla di raccolta differenziata, cosa succede? Succede che stamattina sono aperto la porta, il vetro là era rimasto. Non sono passati a prendere il vetro. Cammino per strada e trovo le cartacce. E butto l'organico, l'indifferenziato. Una volta a settimana si passa per indifferenziato, ma non è possibile. Cioè, guarda, veramente non stanno facendo bene il loro lavoro, né il comune, né gli spazi. Non lo so chi è il responsabile, ma non lo sta facendo bene. Accendo il telegiornale. TG1, TG2, tutti i TG nazionali. E inizio a vedere, no, queste immagini, questi report chilometrici, lunghissimi, su, no, il problema, il non problema, l'immigrazione, tutte queste cose qua. Allora tutti quanti, no, è colpa di quel politico della Francia, è colpa di Bruxelles, è colpa di chi ci governa, non lo stanno facendo bene. E io continuo a dire, che sta succedendo? Nel mio negozio. Capita anche a noi, Mo non è che voglio... Andiamo a mangiare da qualche parte, in un ristorante. Succede che magari qualcosa non va esattamente come noi volevamo, no? Come noi ci eravamo prefissati. Magari il cameriere non ti porta il bicchiere pulito e tu gli devi chiedere. Magari il primo non era salato al punto giusto. Usciamo da quel posto. Però, vedi... E se avessero fatto così? E se avessero fatto così? Cioè, io sinceramente avrei fatto così quella cosa. Io non mi sarei comportato in quel modo. Io avrei servito in questo modo, avrei cotto in quel modo là. Succede questo. Sapete perché? Perché tante volte, e io sono il primo, noi siamo più preoccupati a guardare quello che l'altro sta sbagliando e non ci preoccupiamo di quello che noi stiamo sbagliando. Sono solo io, alzo la mano, perché io sono il primo. Chi altro è con me? Tutti, ma stavo in ansia prima di salire, ho detto qua nessuno, tutti con la mano abbassata, io, vabbè, fatelo a te stesso questo messaggio. Stasera io voglio parlare di questo argomento che riguarda un po' tutti quanti noi che siamo alla ricerca del cambiamento, no? Perché chi di noi può dire nella mia vita va tutto bene, no? Io no. Io credo che nella nostra vita tutti quanti abbiamo bisogno di cercare un cambiamento, di trovare qualcosa che non va per cambiarla. È vero o no? È vero, dai, è vero. Quindi la tematica che volevo affrontare stasera, di cui volevo parlare con tutti quanti noi, è sii te stesso, perché secondo me per cambiare devi essere te stesso. Non devi essere diverso da quello che sei, devi essere te stesso. E io ultimamente... vi voglio raccontare che ho osservato bene una persona. L'ho guardata, l'ho seguita sui social, molto attentamente. Sono andato a pregare spesso con questa persona. Mi sono avvicinato, ci ho parlato spesso, lo sono andato a trovare a lavoro, lo sono andato a trovare a casa. Insomma, l'ho analizzata un po' questa persona. E vi dico che io la conosco da tanto tempo, cioè non è che l'ho conosciuto recentemente, ho un rapporto lunghissimo, da tantissimi anni che conosco questa persona, eppure vi dico che nell'ultimo periodo è un po' diversa. Dice cose che solitamente non diceva. Si comporta in un modo che a volte mi lascia esterrefatto, perché io non lo riconosco più, a volte non si comporta come si comportava prima, è cambiato. Io non volevo dirlo chi è, però lui mi sta dicendo no, dillo, dillo, dillo, e io lo devo dire. Questa persona si chiama Mario Pingitore, non so quanti di voi lo conoscono. Mo' potete respirare, che ho capito che pensavate che... Io ho visto sulle vostre facce, però mo' deve dire il nome mio, mo' deve... No, sono io, state tranquilli, sono io. Io mi sono guardato, io mi sono studiato, io mi sono analizzato, mi sono messo di fronte allo specchio e ho detto, ok Mario, che sta succedendo? Perché? Perché ho notato che pregavo. Ok, venivo in chiesa, entravo tutta lei, dai preghiamo, preghiamo, sì vai preghiamo. Oh, solitamente un tempo di preghiera, diciamo una preghiera può durare 3, 4, 5, 5 minuti. Che succedeva? Che io il 90% del tempo... L'80%, non esageriamo, l'80% del tempo ripetevo 4-5 parole. Gesù, Signore, Amen, Padre Eterno, Padre Celeste, grazie Signore, Signore grazie, Gesù di nuovo. E poi dice, ma poi le altre 30, l'altro 20% della mia preghiera arrivava dritto al punto che poteva essere una richiesta, un ringraziamento, quello che era. Però io dicevo, ma io prima non pregavo così, ma perché prego così? Altro episodio, al negozio, sto lavorando, io solitamente sto dietro il bancone, ok? Quindi quando servo, mortadello, qualcos'altro? No, basta così, grazie, arrivederci. Allora io non stavo dietro al bancone in quel momento, stavo sistemando delle cose sullo scaffale. Entra un signore, buongiorno, lui a me, io lo guardo in faccia. Grazie, arrivederci. Dopo un secondo... No, mi scusi. Buongiorno, voglio, posso aiutarla? Cioè, cose che tu non capisci perché lo fai. Cioè, tu perché ti comporti in questo modo? E quindi quello che mi sono iniziato a chiedere è, ok Mario, ma tu chi sei? Cioè, ma... Chi sei veramente? Non che cosa stai facendo, perché che cosa stai facendo? L'abbiamo capito, sì, ok, lavori, va bene, sei un responsabile in chiesa, segui delle, cioè, stai con delle persone, ti piace vederle gioire, vabbè, l'ho capito che cosa fai. Ma non è importante il cosa fai. Sapete su cosa riflettuto? Che è importante il perché lo fai. Il perché. È più importante del come, del che è più importante di tu, il perché lo facevo, perché quando tu scopri il perché stai facendo qualcosa, lo fai veramente al 100%. E questo vi assicuro che può succedere anche nelle prediche. Se tu non capisci il perché stai facendo questo, a volte possiamo ripetere sempre le stesse parole senza capire perché lo stiamo facendo. Noi siamo qua, e io voglio chiederlo anche a voi, no? Voi perché siete venuti qua stasera? Non mi dovete rispondere, lo so, mo non mi fate di nuovo quella faccia, che non lo voglio sapere, però pensiamoci, perché sono venuto stasera? Perché sono uscito di casa, mi sono messo in macchina, sono venuto a piedi, mi sono vestito e sono qua seduto. Perché? Il perché è importante, perché ti fa vivere al 100% tutto quello che stai vivendo. Devi trovare il perché dietro ogni cosa che fai. E sapete, tante volte... Mi sono reso conto che quello che succede è che ero, perché ero così? Perché ero più preoccupato, cioè mentre stavo facendo quella preghiera magari, o mentre stavo mettendo la merce a posto, ero più preoccupato delle circostanze attorno a me, quindi a quello che dovevo fare dopo, piuttosto che delle circostanze dentro di me. Quindi pregavo ed ero preoccupato di quello che doveva succedere dopo. Ok, dopo che cosa devo fare? Ok, devo fare questo, questo, questo. Signore Gesù, grazie, perché devo fare questo? Metto la merce a posto e penso, ok, che cosa devo fare domani? Sì, devo fare l'ordine là, ok. Grazie, arrivederci, devo fare... Ah no, scusi, buongiorno, volevo dire buongiorno. Tante volte siamo più preoccupati di quello che succede attorno a noi di quello che succede dentro di noi. Quando in realtà, se tu non sei attento a quello che succede dentro di te, le situazioni attorno a te non cambieranno mai. E quindi ci ritroveremo sempre ad affrontare le stesse cose, le stesse problematiche, le stesse dinamiche. Quindi io mi sono analizzato e mi sono voluto spingere a un cambiamento. Ho voluto ritrovare me stesso, ho voluto ritrovare la mia personalità, ho voluto cambiare, ho voluto mettermi di fronte a un cambiamento, perché nella mia vita qualcosa non stava andando. Posso rivedere le mani di quelli in cui che possono affermare che nella loro vita c'è bisogno di un cambiamento? Ok, quello che io voglio dire stasera non è niente di... sono dei consigli pratici su come noi possiamo trasformare e cambiare la nostra vita. Magari perché abbiamo preso una routine e noi la vogliamo spezzare, vogliamo essere attenti a quello che facciamo. Perché la nostra vita ha uno scopo, eh? È vero? E dillo alla persona accanto a te che c'è uno scopo la tua vita, dai. Sapete come sono arrivato a questo cambiamento? Leggendo la Bibbia. La Bibbia è piena di storie interessanti e straordinarie sulla vita di Gesù. Gesù è venuto, non ha fatto cose straordinarie per lasciarle scritte, ha fatto cose bellissime affinché noi potessimo prendere esempio, spunto, da quella che è stata la sua esperienza straordinaria per metterla in pratica oggi. Questa storia mi ha aiutato a ritrovare la mia personalità, la mia vera natura, mi ha aiutato a tornare me stesso. Ed è questa: subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disporte sul monte a pregare. E, venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ah! Tipo così fece. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua!» Egli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo: «Veramente tu sei il figlio di Dio». Ok, questa è una storia della Bibbia, no? Ed è una storia abbastanza famosa, nel senso che anche magari chi non ha mai letto la Bibbia potrebbe conoscere il fatto che Gesù ha camminato sull'acqua. È risaputo, è un po' come la storia di Mosè che ha aperto il mare, l'arca di Noè, tutte queste storie, la Genesi, Abramo, Adamo, e le sappiamo. Questa storia qua è abbastanza conosciuta. Gesù ha camminato sull'acqua, bellissimo. Ora, da questa storia però, io non ho voluto lasciarla scritta sulla Bibbia così, non voglio parlarne così. Ho tratto fuori questi consigli che voglio darci stasera per ritornare, per trovare un cambiamento, per uscire da una condizione, per cambiare, trasformare la nostra vita, trovando quel cambiamento che magari fino ad oggi ci è sfuggito, per migliorarci, perché noi possiamo essere persone migliori, noi non siamo condannati ad essere quello che siamo stati fino ad oggi o che siamo fino ad oggi. Noi abbiamo tutti quanti potenziale e nessuno di noi è meno dell'altro, assolutamente. Quindi il primo cambiamento, il primo consiglio, anzi, che io voglio darci stasera è questo. Seguendo il versetto che vi ho letto, ho notato che la prima cosa che ha fatto Gesù è stato congedare la folla e pregare. Io non so ora tu se lo fai, se non lo fai, come lo fai intenzionalmente per 5 minuti, per 10 minuti, per un'ora, per 10 ore, che lo so che qua preghiamo 10 ore, 15 ore al giorno, io lo so. Però la cosa più importante, il primo consiglio è: preghiamo. Chiesa, abbiamo bisogno di pregare. Voi pensate che Gesù, il figlio di Dio, Gesù era il figlio di Dio. Sulla Bibbia è scritto un sacco di volte che si è isolato e ha pregato. Se ne aveva bisogno Gesù di pregare, voi immaginate noi quanto bisogno abbiamo di pregare. Però a volte questa piccola cosa, questa piccola sfaccettatura la lasciamo un po' da parte e quasi ce ne dimentichiamo, diventa una cosa secondaria rispetto al fatto che noi dobbiamo fare le cose. Ma la prima cosa che ha fatto Gesù qua è stato allontanare la folla, quindi tutte le distrazioni, tutte le cose che potevano portarlo a pensare ad altro, e pregare. Noi abbiamo bisogno di una vita di preghiera. Noi dobbiamo pregare. Pregare è il primo consiglio che ci aiuta a ritrovare il nostro vero essere, la nostra vera personalità. Gesù non è che, abbiamo detto prima, noi 21 giorni di digiuno, bellissimo, abbiamo un evento, noi ci prepariamo prima, perché? Attenzione che in quarta fila arrivo, Perché? Perché vogliamo correre e saltare e arrivare il più lontano possibile in quello che Gesù ci vuole dare in quei giorni. E noi lo stiamo facendo per questo grande evento che è la nostra conferenza di chiesa. Ora io vi dico una cosa. Gesù ha affrontato una tempesta. Gesù ha affrontato una tempesta, ha fatto un miracolo, ha camminato sull'acqua. E sapete cosa mi fa pensare questo? Gesù sicuramente sapeva che ci sarebbe stata la tempesta, però lui è arrivato a quel miracolo pronto perché aveva pregato. Ora noi ci stiamo preparando per la conferenza in questo digiuno, ma come diceva Antonio, e noi ci arriveremo prontissimi, ma come diceva Antonio, noi quanto sarebbe bello se ogni giorno della nostra vita fossimo pronti a vivere questo slancio, ogni giorno. Come sarebbe bello se noi ogni giorno vivessimo come Gesù la possibilità di fare dei miracoli, di vedere dei miracoli. I miracoli noi li possiamo vedere, però dobbiamo essere preparati a vederli. E come ci prepariamo? Pregando. Abbiamo bisogno di pregare. Abbiamo bisogno di pregare per ritrovare la nostra vera personalità. Il secondo consiglio che ho da darci stasera è, Gesù, dopo aver pregato, una frase curiosa che mi ha colpito subito è venuta la sera, rimase là da solo. Non c'è scritto che cosa ha fatto. Non c'è scritto se Gesù stava pescando, se stava mangiando, se stava dormendo, se stava pregando. Non c'è scritto che cosa stava facendo. C'è scritto che è rimasto là da solo. E questo mi fa capire che è importante che ogni tanto tu che mi stai ascoltando, ti prendi del tempo per stare da solo. Fuori dal lavoro, casa, chiesa, palestra, hobby, cinema, sport. Da solo. Prenditi del tempo per chiudere la porta e dire che è successo oggi? Ma io questa settimana cosa devo fare? Ma io che cosa devo realizzare nella mia vita? Ma qual è lo scopo della mia vita? Ma io perché sto qua? Fermati, prenditi del tempo per te. Ti stai prendendo del tempo? O stai facendo... Stai servendo... Ok, servo in chiesa, va benissimo. Ma tu stai badando a te stesso? Cioè ti stai prendendo cura di te stesso? O stai facendo le cose perché le stai facendo e le devi continuare a fare? Gesù si è preso un tempo per stare fermo, per pensare. Secondo me, per riflettere, per ragionare un attimo, ok, che cosa ho fatto fino ad oggi? Ok, ho parlato alla folla, ora loro stanno andando là, ok, questa settimana io voglio realizzare questo, questo, questo e questo. Poi farò questo e farò questo. Poi tra un mese penserò a quella cosa. Ragionare, programmare, riflettere ti permette di vivere bene quello che stai vivendo. Perché se tu non programmi, poi magari mentre io sto predicando devo pensare a quello che io devo fare questa settimana. E devo dire, e questa settimana? Sì, Gesù ci ama tantissimo, e questa settimana venerdì live, chi deve predicare? Sì, Gesù è fantastico, però io devo fare la riunione, non mi sono preparato. Come devo fare? Quando mi devo preparare? Questo succede, che se tu non ti programmi, se tu non sei attento a dire questo tempo io lo dedico a questa cosa, questo giorno io farò questa cosa, questo giorno io farò questa cosa, ti ritrovi a fare le cose e ad essere un po' distratto. Invece per ritrovare te stesso è importante che tu preghi e ti prendi del tempo per te stesso, così tu ragioni anche con i pensieri che quella preghiera ti ha lasciato in testa e non con i tuoi pensieri. È importante che preghi e ti prendi del tempo per te stesso e non che ti prendi solo del tempo per te stesso, perché altrimenti iniziano i pensieri ad andare dove non devono andare. Però se tu hai pregato, quindi sei stato bello, tranquillo con Gesù, da solo, perché quando stai da solo con Dio, tu quando sei da solo con una persona ti dici i fatti seri, le cose importanti, affronti argomenti intimi. Cioè se io dico, non lo so, Nella, dobbiamo parlare dopo, lei capisce che c'è qualcosa di serio di cui io gli voglio parlare. Quindi è importante prendersi del tempo con Gesù e prendersi del tempo con se stessi. È importantissimo. E questo è quello che serve a noi. Questo ci aiuta a capire qual è il tuo perché. Qual è il perché della tua vita. Ora, dopo aver capito il perché della mia vita, quindi dopo aver compreso, ok, qual è il mio perché, sono andato avanti. E andando avanti ho visto che Gesù ha fatto un'altra cosa importantissima, cioè è arrivato un certo orario della notte, si è alzato e ha camminato. E dove è andato? Ha raggiunto i suoi amici che erano nella tempesta. Quindi quello che ho compreso è questo, è che dopo aver passato del tempo per te, dove tu ti riscopri, ti metti bene, sei saldo, sei sicuro, sei pieno di uno spirito buono, è arrivato il momento di raggiungere le persone che non sono ancora qua. C'erano degli amici di Gesù che erano in una tempesta, che non erano con lui. Quindi io voglio chiedere a noi stasera, quanti amici abbiamo che non sono qui stasera, che stanno vivendo una tempesta? Cioè, per tempesta io dico una difficoltà. Posso vedere le mani? Diciamo che la maggior parte di noi hanno amici che non sono qui dentro, che stanno vivendo una difficoltà. Questo ci porta a fare qualcosa, ci porta a raggiungerli. Cioè tu non li devi guardare da lontano e dire, ok, quello là sta vivendo quella difficoltà, ormai si è lasciato con la ragazza, sta depresso. Quello ha perso il lavoro, vedi come sta, vedi? Mamma mia, difficile. La moglie l'ha lasciato. E chi va a parlare con questo? No. No, è troppo difficile. Quando in realtà non ci rendiamo conto che Gesù ha fatto una cosa. Gesù non ha fatto altro che alzarsi da una posizione e con tutta naturalezza ha camminato. Gesù non si è smaterializzato ed è comparso in mezzo alla tempesta. Gesù non ha volato ed è arrivato in mezzo alla tempesta. Gesù non è andato sott'acqua come un razzo così ed è uscito da sotto la barca così. Gesù ha fatto la cosa più naturale che potesse fare. Lui era Gesù, poteva pure fare qualsiasi cosa. Eppure ha scelto di farlo nel modo più naturale possibile. Sapete perché? Per raggiungere i nostri amici, quelli che sono nella tempesta, non ci dobbiamo inventare niente di straordinario. Basta essere te stesso. Basta la tua naturalezza. Basta che tu sia te stesso. Non devi inventarti strategie. Se preghi e passi del tempo a meditare, in tutta naturalezza tu puoi andare dalle persone, dai tuoi amici, e andarli a incoraggiare. Non devi inventarti chissà cosa. Non devi pensare di dover fare chissà quale cosa. Perché poi c'è un'altra sfaccettatura che mi è piaciuta evidenziare, il fatto che quando noi vediamo che magari il nostro amico è in difficoltà, cosa facciamo? O lui ci manda il messaggino, perché lui lo sa che noi siamo cristiani, e ci dice, sto male oggi, se puoi fai una preghiera. Oppure siamo noi che vediamo la persona in difficoltà, come stai? Pregherò per te. Chiesa, pregherò per te è facile. Pregherò per te è troppo facile. Ci dobbiamo alzare, lasciare il telefono con tutti i messaggini che mandiamo e andare nella tempesta. È così che noi portiamo le persone a Gesù, perché noi non siamo qui per portare le persone in chiesa. Noi siamo qui per portare Gesù alle persone. È questo quello che dobbiamo fare e noi in tutta naturalezza lo possiamo fare. Non ti serve niente di straordinario. Questo pregherò per te, no? Che è sulla bocca di tutti, anche sulla mia. Non mi nascondo, io lo dico spesso, pregherò per te. Poi a volte pure mi dimentico di farlo. Sono il primo ad ammetterlo. Questo pregherò per te mette attorno a noi un alone di misticità, no? Sembriamo tutti dei super sacerdoti, di quelli speciali. Ma il nostro compito, quello che Gesù vuole da noi, non è che noi siamo dei sacerdoti. Noi non dobbiamo innalzare noi stessi. Noi dobbiamo andare in quella tempesta con la nostra naturalezza, con i nostri pregi e i nostri difetti e dimostrare che c'è un percorso che noi stiamo vivendo in primis, dove vogliamo uscire da quella tempesta e insieme a noi puoi venire anche tu, può venire anche il tuo amico. Invece il pregherò per te diventa solo un alone, no, di spiritualità, dove tu sei sopra e tu sei il tramite tra Dio e quella persona. Ma questo non è giusto. Non è giusto. Questi non siamo noi, quello è il ruolo che spetta Gesù. Tu vai nella tempesta, e non è facile, come sei? Dopo aver pregato e dopo aver passato del tempo per te, vai nella tempesta e con la tua, col tuo essere, senza niente di più, raggiungi quelle persone. Tu devi essere naturale, devi essere te stesso, tu basti, tu sei prezioso, hai tutto, non ti manca niente. Camminare è un gesto alla portata di tutti. Camminare tutti lo possono fare, perché Gesù ha preso le cose straordinarie che Dio aveva in mente per noi e le ha rese ordinarie. E le ha fatte, quelle cose ordinarie, in maniera straordinaria. È per questo che noi ci ricordiamo di Lui. Gesù ha fatto le cose più belle e più incredibili nel corpo, nello stesso corpo che hai tu, nel corpo di un essere umano. Quindi se lo ha fatto Gesù, ti assicuro che anche tu lo puoi fare. Noi ce la possiamo fare. Io sogno che per ciascun paese rappresentato in questa sala, e immagino ce ne siano diversi, possa nascere una chiesa. Cioè questo è il sogno che dobbiamo avere. Il nostro sogno non deve essere quello di venire qui la domenica, sederci, ascoltare una predicazione, un messaggio, vedere un momento di lui. Io sogno che per ciascun paese rappresentato qui, tu possa essere responsabile di quella chiesa. Tu possa esserne pastore. Tu possa scegliere di andare a trovare quegli amici e portarli a te, con la tua naturalezza, col tuo essere. Io non ho fatto nessuna scuola, ragazzi. Chiesa, io non ho studiato per diventare responsabile dei giovani. Io non ho fatto una scuola biblica. Io non ho fatto studi. Io amo solo Gesù. Io prego e passo del tempo con Dio. E quando vedo una difficoltà, una persona in difficoltà, cerco di capire qual è la difficoltà. È facile? No. È bello però. È molto bello. È molto bello. Perché tu vedi in prima persona come quella persona poi inizia a trasformarsi, inizia a venire fuori da quella tempesta. Noi non siamo chiamati alla perfezione. Gesù era perfetto. Però in questa storia non è solo Gesù che ha camminato sull'acqua. Quindi se tu hai pensato di essere Gesù, mi dispiace per te, non sei Gesù. Pietro, Gesù lo ha chiamato. Vieni, cammina, raggiungimi, vieni. Una tempesta incredibile. Eppure Pietro, con il suo essere limitato, con il suo essere peccatore, con il suo essere sbagliato, io non lo so come ha fatto, se ha camminato, se è andato così. Io non lo so come ha fatto Pietro, però c'è scritto che Pietro ha camminato sull'acqua. Non è il cosa ha fatto a essere straordinario. Camminare tutti lo sappiamo fare. È il come lo ha fatto che è straordinario. È il come che rende straordinario quello che stai facendo. Noi siamo chiamati a vivere cose straordinarie, essendo noi stessi. Tu ce la fai, non ti manca niente. Chissà, non ti manca niente. Ce la fai. Scegli una persona. Noi come Upside Down quest'anno stiamo vivendo un anno che si chiama Double. Perché? Perché immaginate che 30 ragazzi, 40, hanno scelto una persona, un amico, una persona da gennaio. E stanno avendo una relazione con quella persona, ci stanno parlando, si stanno prendendo un caffè con quella persona, nella loro naturalezza. Non sono perfetti, nessuno lo è. Però questo perché? Perché vogliono portare Gesù a quella persona. Vogliono portare Gesù a quella persona. E sapete come? Semplicemente come sono. Come loro sono, essendo naturali. Quindi io voglio chiedere a tutti quanti noi di alzarci in piedi stasera. Voglio farci una domanda. chi è qui perché è arrivato attraverso un evento organizzato da questa chiesa o da altre chiese. Posso vedere la mano? Chi invece è qui stasera perché qualcuno lo ha raggiunto? Posso vedere la mano? Diciamo è un 70-30. La maggior parte di noi sono stati raggiunti da qualcuno. La maggior parte di noi sono stati raggiunti da quella persona imperfetta che ha scelto di essere naturale con te, di ascoltare i tuoi problemi, di ascoltare le tue paure, di dirti dai tranquillo che ce la facciamo, di dirti ce la possiamo fare, che ti ha messo un braccio attorno al collo, che ti ha incoraggiato, che ti ha mandato un messaggio e che a quel messaggio sono seguiti dei fatti. Questo è Gesù per tutti. È sì un evento in piazza, ma questo è Gesù per tutti. E ora vorrei, per concludere, che facessimo un esercizio che ci aiuta ad essere naturali. Sii te stesso, perché tu sei bellissimo così. Tu sei bellissimo così e Gesù lo sa come sei. E ha scelto te per raggiungere quell'amico, quella persona. Ora vorrei che per un minuto pregassimo. E fin qui. Però dobbiamo fare un esercizio. Dobbiamo dire Gesù una volta sola. Sembra facile, Proviamoci. Gloria a Dio non vale, mi suggerisce mia moglie. Proviamo a fare una preghiera di un minuto dicendo solo una volta Gesù. È mistico? No. È un parlare in una conversazione, come in un amico con Gesù. Perché noi non dobbiamo vestirci di un abito la domenica e di un altro abito il lunedì. Noi dobbiamo essere naturali, vivere Gesù nella naturalezza. Non dobbiamo pensare che le cose sovrannaturali non possono essere naturali. No, no. Nella tua naturalezza, nel tuo essere normale, puoi fare cose straordinarie. Ci proviamo? Io l'ho fatto tutta la settimana. È stato difficile, eh? Ora lo facciamo e poi mi dite com'è andata. Ok? Preghiamo.